to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Allora, scusate un piccolo problema tecnico, buongiorno a tutti e a tutte, dai microfoni di Radio Onda Rossa 87.9, un buongiorno e un ben ritrovati e ritrovate. Siamo qui questa mattina, abbiamo un'ora di spazio con due lavoratori delle pulizie della Sapienza, qui diciamo buongiorno, buongiorno, benvenuti. Buongiorno. E sono qui con noi per raccontarci un po' qual è lo stato della mobilitazione, come si sta portando avanti la lotta, perché proprio questa mattina c'è stata un'assemblea sindacale che doveva preludere uno sciopero di due giorni che doveva svolgersi domani e dopodomani. Però ci sono stati degli sviluppi che magari ci possono raccontare nel dettaglio. Sì, appunto, come già avevamo anche con la corrispondenza di ieri esposto, avevamo indetto con l'assemblea degli studenti e dei lavoratori uno sciopero di due giorni per appunto avere un momento di rottura con l'azienda, che appunto in tutti questi mesi e assolutamente aveva peggiorato le condizioni di lavoro degli operai e delle operaie. Quindi comunque ci eravamo lasciati che per domani e dopodomani ci dovevano essere questi due giorni di sciopero di tutto il comparto, e chiaramente l'azienda, vista queste iniziative di sciopero, ha cominciato a dare dei piccoli contentini che per appunto come al solito, poi, perché abbiamo visto anche in passato, quando ogni qualvolta facciamo delle iniziative tentava di mettere delle piccole toppe per appunto placare gli animi o cercare attraverso le organizzazioni sindacali di allungare i tempi e quindi diciamo Di placare gli animi. Sì, appunto, di smorzare comunque la situazione. Siamo arrivati questa mattina all'assemblea sindacale, in cui c'è stata una, diciamo, una partecipazione media, diciamo, in cui abbiamo comunque esposto questa rivendicazione, visto che era appunto partita dai lavoratori stessi questa esigenza dei due giorni di sciopero. L'azienda, come diciamo prima, per placare questa situazione aveva promesso, diciamo, poi andremo a verificare nei prossimi giorni, un incontro che chiaramente per l'azienda era un incontro con i sindacati, poi magari adesso con il discorso andremo un attimo a sviluppare meglio. Sì, facciamo anche poi una cronistoria di come sono nati, sì, questi incontri. Sì. E appunto per mettere nero su bianco la risoluzione del problema, quindi il discorso dell'orario spezzato, quindi mettere nero su bianco che i lavoratori riaccorpati in orario continuato sia una cosa permanente, e questo è uno dei punti cardine, insomma, della lotta. Il discorso delle buste paga, il discorso quindi salariale, perché l'azienda Euros e Promos in questi mesi è andata a toccare i salari delle persone, quindi non rispettando il contratto nazionale, che già di per sé è un contratto per quanto riguarda il settore delle pulizie, quindi dei multiservizi, del contratto dei lavoratori multiservizi. Quindi è già un contratto a ribasso, siamo una delle ultime categorie retribuite a livello di retribuzione, è andato a toccare con grossi e pesanti decurtazioni sul salario. Quindi per noi questo è uno dei punti cardini. Ci sono colleghe nostre che questo mese hanno preso 290 euro, fino all'altro giorno, quindi fino a prima dell'inizio dello sciopero, non venivano erogati gli assegni familiari. Guarda caso, subito dopo l'iniezione di sciopero sono stati erogati gli assegni familiari e anche gli arretrati. Chiaramente rimane tutto il discorso del salario, quindi non viene rispettato il salario a parametro, ci sono dei forti ribassi, e poi chiaramente tutta la discriminazione che c'è stata fino ad oggi sulle l'erogazione delle divise. Quindi così facciamo anche un breve riassunto. Siamo stati per 2 mesi senza divise, senza dispositivi di sicurezza. Mano a mano con l'azienda andava avanti, piano piano l'azienda reagiva. Dopodiché c'è stata una forte discriminazione nei confronti delle operaie, a cui è stato energito un camice estivo per l'inverno. Quindi questo chiaramente noi l'abbiamo denunciato, è uno tra l'altro dei punti fondamentali anche della lotta, perché comunque già c'era stata discriminazione, tra l'altro nell'orario spezzato, quando furono spezzati gli orari, che le donne non rientravano, insomma. Poi mano a mano chiaramente l'azienda ha dovuto concedere, ma questo è solo grazie alla lotta, perché in tutto questo tempo CISL e UIL da una parte sono stati i primi a defilarsi, a dissociarsi, quindi anche dagli stessi operai che spontaneamente in maniera auto-organizzata hanno lottato. Poi c'è stato chiaramente anche il ruolo della CGIL, che invece ha tentato di allungare il brodo. La volta scorsa avevamo un incontro fissato con poi ha detto anche dell'università. Avevamo un incontro fissato, università, azienda e delegazione di lavoratori e di studenti. Chiaramente c'è stato il solito giochetto che alla fine l'università si è defilata, perché chiaramente loro dicono che queste sono questioni sindacali, mentre noi invece già da tempo diciamo che qui il problema è, quando parliamo di internalizzazione, anche di costi dell'università. Certo, perché ricordiamo tra l'altro che l'Università La Sapienza, come ente committente, è responsabile delle condizioni attuali, perché ha sottoscritto un appalto al 26,5% del ribasso, peraltro un appalto firmato al ribasso rispetto a una stima dei costi datata 2001, quindi piuttosto antica. Appunto, quindi la responsabilità della Sapienza è chiara ed evidente rispetto a questo, rispetto anche al passaggio dall'orario continuato all'orario spezzato, che l'azienda dice essere diciamo paternità o maternità della Sapienza, che ha espressamente richiesto quest'altra forma di svolgimento del lavoro con l'orario spezzato. E non solo, anche il fatto che voi da anni ormai non potete più accedere ai parcheggi dell'università, ma siete costretti a parcheggiare all'esterno, quindi anche pagando il parcheggio, mentre ricordiamo che i professori, il personale tecnico amministrativo hanno assolutamente il diritto di entrare e parcheggiare all'università. E sono molteplici, anche la partecipazione degli studenti è relativa chiaramente al loro ruolo di utenti del servizio, anche sicuramente si declina in termini di solidarietà e partecipazione attiva a una lotta più che legittima, ma anche si declina in termini di utenza di un servizio che è sempre più scarso, che mette i lavoratori in pessime condizioni, e di contro si vedono le tasse aumentare vertiginosamente senza avere poi in risposta dei servizi che insomma siano all'altezza di questo pagamento, visto che paghiamo tutti quanti almeno 1000 euro di tasse l'anno, di tasse universitarie. Sì, infatti, appunto, come dicevamo noi, uno dei punti anche cardine della lotta è appunto la rivendicazione dell'internalizzazione, che oltre a migliorare chiaramente la condizione di lavoro degli operai e delle operaie, porta anche minori costi di gestione da parte dell'università, perché in un calcolo diciamo approssimativo l'università, non appaltando alle ditte private, risparmierebbe 10 milioni di euro. Questa diciamo non è una cifra che di poco conto, vista anche diciamo, visto che tante volte ci parlano di crisi, ci parlano di tagli all'istruzione, di fondi che non vengono dati dai governi, poi dopodiché c'è la speculazione soggetti che sono all'interno dell'università preposti a dare le gare d'appalto, che elargiscono questi appalti che chiaramente poi ricadono sulla pelle dei lavoratori e non certo sulle tasche delle aziende che prendono gli appalti. No, peraltro lo ricordiamo anche che anche facendo una ricerca molto sommaria in rete si può scoprire che queste aziende già prima di sottoscrivere l'appalto, il capitolato d'appalto con la Sapienza, avevano fatto altri magheggi in altre zone d'Italia. Per esempio c'erano vertenze aperte a Verona, a Livorno, a San Benedetto, con licenziamenti ingiustificati, con detrazioni ingiustificate dalla busta paga. Quindi l'azienda si era già confrontata con percorsi di lotta e vertenze sindacali, perché si era già comportata da, insomma, da azienda speculatrice qual è. Ma in effetti il discorso è questo: loro stanno praticamente prendendo dei tempi lunghi per rientrare nei 6 mesi della prova. Di conseguenza, loro che stanno facendo? Ogni volta che noi prendiamo delle iniziative, come diceva il collega, noi ci ritroviamo che in una fase di attendeismo, perché loro prendono dell'altro tempo dandoci dei piccoli contentini, come dicevi giustamente tu. Arrivati però ai 6 mesi, loro rimangono dentro per tutta la durata dell'appalto. Esatto, infatti ricordiamo questa cosa, che tra 2 mesi scade il periodo di prova di questa azienda e poi verrà, diciamo, si insedierà definitivamente per 5 anni. Quindi, insomma, prima che questo accada è bene mettere in chiaro tutte le varie nefandezze che questa azienda, che queste due cooperative, la Euro in Promos e la Coop Service, stanno perpetrando e stanno portando avanti. E in effetti per questo sarebbe, guardando in prospettiva la situazione, secondo me sarebbe per questo prendere anche atto della possibilità dei vari licenziamenti che loro potrebbero effettuare subito dopo. Sì, chiaramente questa poi è una pratica che, come diceva prima la compagna, è una pratica che la Euros e Promos è un modus operandi di questa azienda, perché ci arrivano denunce da Verona in cui ci sono licenziamenti ingiustificati, denunce da Pisa, e a Venezia la Euros e Promos è andata di fronte a un giudice perché aveva denunciato un sindacalista che dava dei volantini fuori dal posto di lavoro, e il tentativo appunto di spezzare l'orario o di fare determinate pressioni, come ci sono stati poi nei primi tempi in cui loro hanno preso l'appalto, è quello di scoraggiare i lavoratori a venire a lavorare. Questo significa che loro, prendendo una gara al ribasso e dovendo assumere tutti i dipendenti, ha un costo per loro alto. Quindi chiaramente tentano in tutte le maniere di scoraggiare la persona o a rinunciare alle ore o addirittura abbandonare il posto di lavoro. Questo per poi rientrare maggiormente sui soldi dell'appalto preso. Quindi questa mattina noi ci siamo poi confrontati con questa assemblea sindacale, portando le nostre istanze. Ci siamo dovuti anche confrontare per l'ennesima volta con l'elite della CGIL, che fino ad oggi in maniera vergognosa ha cercato di fare pompieraggio sociale. E abbiamo ottenuto alcune cose, e sarà poi lo spartitraffico poi per il futuro, perché come dicevano prima, fra 2 mesi questa azienda poi rimarrà per 5 anni e chissà che cosa succederà, anche perché hanno il manforte dell'Università della Sapienza, di Fradi e chi per lui. E la risoluzione finale di questa dell'assemblea di oggi è stato che all'incontro che ci sarà il 25 con l'azienda ci sarà una delegazione dei lavoratori e delle lavoratrici e di studenti, chiaramente, che sono stati coprotagonisti della lotta, con uno sciopero già indetto, perché noi ci siamo lasciati oggi con l'indizione di sciopero per il giorno 26 e 27. Se l'azienda non retrocede in maniera totale a tutto questo tipo di iniziative che ha preso, noi renderemo l'Università La Sapienza un campo, non saprei come definirlo, diciamo un immondezzaio, vogliamo chiamarlo così? Sì, insomma. Visto che sicuramente ci sarà un segno del della protesta, della lotta, perché evidentemente è un servizio che anche da molti utenti del servizio non viene riconosciuto come fondamentale. Gli stessi professori, lo stesso rettore, il personale tecnico amministrativo sicuramente sono ben contenti di trovarsi l'ufficio pulito e il bagno personale lindo e pinto, però poi ecco, forse finché non gli manca non si rendono conto realmente del lavoro che svolgete, dell'importanza poi del servizio stesso. Ma vedi, infatti secondo me, il punto chiave è proprio questo, cioè riuscire a portare la sapienza in una situazione di disordine sarebbe buono per far sì che facciano pressioni alla ditta, di modo che pure noi lavoratori siamo in qualche modo tutelati e quantomeno anche visti in maniera adeguata per il lavoro che svolgiamo. Certo. E il fatto stesso dell'internalizzazione sarebbe un punto chiave per la sapienza a questo punto, perché verrebbe fuori un risparmio di soldi che porterebbe meno tasse agli studenti, ma anche delle nuove iniziative da parte della sapienza stessa, come sì, la ricerca e tutto quello che può essere a livello di cultura. Sì, poi chiaramente non ci interessa solamente creare disagio, perché noi in queste due giornate vorremmo creare delle situazioni, come è stata poi la caratterizzazione del nostro percorso fino ad oggi, quindi di ricompositiva rispetto ai soggetti in campo, visto che ci sono stati gli studenti e i lavoratori. Ci interessa in questi due giorni costruire delle iniziative che vanno poi a comunicare sia al resto dell'utenza ma anche agli altri lavoratori appaltati, esatto, dell'esigenza di costruire un percorso in prospettiva che avvii poi questo discorso di internalizzazione, perché a partire dalle pulizie poi ci sono decine di ditte appaltate. Quindi in queste regioni noi cercheremo di creare anche momenti assembleari, momenti di comunicazione, quindi non solamente un disagio, diciamo, fino a se stesso. Il disagio poi chiaramente quello purtroppo il frutto poi del disagio che ci viviamo sul posto di lavoro, quindi che sono 4 mesi che voi state in condizioni evidentemente disagiate, quindi insomma, poi appunto, come dicevi, la ragione dello sciopero è la volontà anche di allargare agli altri lavoratori e lavoratrici esternalizzate, è fondamentale, importantissima in questo senso, perché la sapienza appalta ormai qualunque servizio, ci manca solo che appalti la docenza, però per questo in alcuni casi già avviene, in altri casi semplicemente sfrutta il lavoro di ricercatori e assistenti vari, con una retribuzione annua di 200 euro per esempio per quello che riguarda facoltà come giurisprudenza, e mentre tutti i lavoratori ad esempio delle portinerie, i cosiddetti lavoratori delle guardianie, le portinerie delle varie facoltà e dipartimenti, così come i lavoratori che svolgono il lavoro di vigilanza all'interno dell'università, o i parcheggiatori, visto che adesso la sapienza anche dei parcheggiatori, o i giardinieri, insomma sono tutte ditte esterne che svolgono queste mansioni, e le condizioni, insomma, chiacchierando un po' anche nelle varie mattinate durante i vari presidi, qualcuno si è avvicinato, ci siamo resi conto che la situazione è problematica, è generale, che chiaramente questo meccanismo dell'esternalizzazione ha portato semplicemente a un aumento della filiera attraverso cui passano i soldi di finanziamento, in maniera tale che tutti ci possano mangiare. E detto questo, mandiamo una traccia musicale e torniamo qui a breve per continuare a parlare della situazione dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Università La Sapienza. Standing on the radio. Torniamo in voce sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ricordiamo il nostro numero di telefono per chiunque volesse intervenire in questa in questo racconto dello stato della lotta dei lavoratori, delle lavoratrici, delle pulizie dell'Università La Sapienza. Il telefono che è lo 06 49 17 50 e torniamo a parlare appunto di questa lotta che va avanti da parte degli operai e delle operaie delle pulizie della Sapienza contro le due cooperative Euro and Promos e Coop Service, che non solo hanno unilateralmente imposto ai lavoratori e alle lavoratrici un orario spezzato, lo spieghiamo nello specifico, mentre prima loro, il loro turno era dalle 6.30 del mattino alle 13.30, ora invece il turno che hanno svolto per diversi mesi è stato spezzato dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 2.30 alle 5.30, quindi con pesanti ripercussioni e conseguenze sulle loro vite. E non solo questo, ma anche tante decurtazioni in busta paga. Sì, come dicevamo appunto, già per esempio questo discorso di dividere l'appalto in due già denota il fatto del tentativo, perché prima per esempio era una sola azienda, già comincia a denotare il fatto che anche da parte dell'Università della Sapienza ci vede, diciamo, come un peso, nel senso che essendo tutti dipendenti abbiamo un tipo di costo, quindi hanno cominciato un processo che poi vedremo se ci saranno o non ci saranno altri appalti, insomma, di suddividere questo comparto operaio in tante piccole cooperative. Hanno cominciato con Coop Service, Euro e Promos, probabilmente nei prossimi appalti diventeranno 4 cooperative, poi 8 e così via, in modo che oltre chiaramente a frazionare gli operai e le operaie, le cooperative che entreranno avranno anche maggiore facilità di sfoltimento, quindi di licenziamento. Sappiamo bene che sotto un certo numero di operai l'azienda può licenziare, quindi questo è un primo tentativo. Chiaramente poi la loro parte buona la fanno anche le aziende, come stavamo dicendo, appunto con questo scoraggiamento, quindi questo orario spezzato poi ha portato una grossa influenza nella vita delle persone. Chi purtroppo ha dovuto lasciare il secondo lavoro, chi aveva impegni familiari, molti pendolari, lo ricordiamo anche, quindi persone che uscivano per venire a lavorare col buio di mattina e tornavano a casa col buio. C'era addirittura chi viene da Avezzano per lavorare, quindi insomma si fa un po' di strada. Poi ricordiamo anche che queste due aziende hanno preso personale dell'appalto della Sapienza e l'hanno mandato in trasferta a lavorare a Pisa, se non sì, se non quindi sbaglio. Già appunto già prendendo l'appalto di ribasso, già essendo noi in sottonumero, perché chiaramente via via che si va col tempo le persone vanno in pensione o stanno in aspettativa, e chiaramente sempre nella logica del ricatto hanno mandato persone a lavorare a Pisa, hanno mandato persone a lavorare a Roma, al comune di Roma, che tra l'altro l'Eurostep promossa anche il comune di Roma, quindi è un'azienda abbastanza organica anche con le istituzioni, visto che riescono a prendere degli appalti così grandi. Sì, certo, l'organico della Eurostep promossa è molto molto forte, però diciamo che il discorso che loro stanno effettuando è una vera e propria forzatura nei riguardi nostri, perché chiaramente avendo il problema del sottocosto dell'appalto preso alla Sapienza, perché quello poi diventa un gran biglietto da visita, ovviamente che hanno fatto? Hanno cercato di spostare il personale nei loro appalti altrove per guadagnare l'intero e rientrare dei soldi, magari mettendoli in malattia, in malattie prolungate, per poter in qualche modo giustificare le varie assenze, senza però per questo dare o fornire al personale che rimane sul posto un incentivo, magari come può essere il pagamento delle ore straordinarie, o un incentivo come può essere il pagamento delle ore in sostituzione, o addirittura una sostituzione vera e propria fisica. Questo non avendolo fatto, il lavoro che noi andiamo a svolgere quotidianamente viene ulteriormente deteriorato e quindi come risultato non va bene. E è un'altra arma a doppio taglio per noi, ma buona per loro, per effettuare appunto lo sfoltimento che tu dicevi poco fa. Sì, appunto, troviamo delle persone che hanno un determinato posto all'interno dell'università da pulire e tante volte deve coprire anche il posto, e questa è una pretesa poi dell'azienda, a volte anche con la minaccia di dover coprire anche il posto della persona mancante o della persona che è andata in pensione, quindi questo va risentito sia sulla condizione di lavoro, di stress sul luogo di lavoro, ma anche sull'utenza e quindi sulla qualità del servizio. Quindi, come dicevamo, sì, però ecco, vedi, questo qua diventa un giochino molto molto pesante per noi da poter affrontare. Infatti, guardandolo in prospettiva, noi potremmo cercare in qualche modo, visto i vari sit-in e le varie iniziative che abbiamo preso a livello di lavoratori, con l'aiuto e il sostegno appunto dei studenti e di anche altre persone che lavorano all'interno stesso dell'università, noi potremmo cercare di tutelare i lavoratori che si sono esposti maggiormente, tutelare anche i lavoratori che non si sono esposti per paura o per timore, perché effettivamente magari hanno delle esigenze personali economiche, visto lo stato di crisi economica italiano, molto molto difficoltose. Potremmo cercare in qualche modo di tutelare tutta questa situazione per far sì che, se loro riescono a passare i 6 mesi che poi hanno il contratto di 5 più 5, non succeda niente a tutti questi lavoratori, ma al tempo stesso cercare di con lo sciopero chiaramente, e infatti io lo ribadisco, per me era da fare oggi, era un discorso che noi avremmo avuto una possibilità maggiore di forza nella contrattazione con questa ditta, che chiaramente sta effettuando un bluff sia con la Sapienza che con noi operai, solo per introiti personali. Sì, infatti questo che tu dici è assolutamente vero. Il problema che abbiamo riscontrato questa mattina poi in assemblea sindacale è che molti lavoratori e lavoratrici diciamo sono ancora fiduciosi nella possibile risoluzione così conciliatoria con l'azienda, e questo ipotetico incontro del 25 poi ha un po' sortito, e molto ben sponsorizzato dal segretario della CGIL di categoria, che è riuscito nella sua momentanea operazione di congelamento dello sciopero, non è riuscito a revocarlo, perché quando ha provato anche solo a pronunciare parole simili è stato aggredito. Su questo sicuramente c'è una compattezza per quanto riguarda l'esigenza dello sciopero, però in termini di linearità temporale del percorso, questo ulteriore passaggio con Il tavolo dell'azienda è stato visto come necessario o comunque praticabile, posto il fatto che a questo incontro si insisterà, i lavoratori e le lavoratrici hanno insistito perché ci fosse una delegazione di lavoratori e lavoratrici che partecipano all'assemblea e al percorso di lotta, grazie al quale sono state, diciamo, raggiunte delle piccole conquiste, perché ricordiamo sono stati tutti reintegrati al continente, seppure gli ultimi quattro non con una con niente di scritto, se non sbaglio, con una proposta verbale, però diciamo, e le divise in parte sono arrivate questo mese, le buste paga sono un po' sistemate e ritoccate. Però ciò non toglie che non c'è stata una soluzione generale per tutti e tutte, quindi su questo c'è per fortuna da parte di molti e molte la convinzione che fino a quando non ci sarà una soluzione generale la lotta non si interromperà. E anche per quello che riguarda il discorso rispetto all'internalizzazione, sicuramente il reintegro all'orario continuato e poi l'elargizione delle divise, così come la fondamentale, importantissima sistemazione delle buste paga, che sono poi il problema più pressante per tutti quanti, insomma, questo non interromperà il percorso di lotta, perché poi le condizioni non sono delle migliori, anche perché ricordiamo che da capitolato questa azienda avrebbe dovuto assumere 49 unità al momento dell'insediamento, cosa che non è avvenuta, e questo ha comportato un notevole aggravio del monte ore e della quantità di lavoro che gli operai e le operaie si trovano a svolgere, perché non solo queste persone non sono state assunte, quindi non sono stati sostituiti tutti coloro che sono andati in pensione, ma non vengono sostituiti coloro che vanno in malattia, quindi tutti i lavoratori e le lavoratrici si trovano ogni giorno davanti al ricatto del dover allungarsi un po' e pulire anche ciò che è di competenza dei colleghi assenti. E quando parliamo di zone di competenza della pulizia, parliamo di aule molto grandi, che sicuramente che richiedono anche un certo tempo e una certa fatica per essere tirate a lucido come l'università vorrebbe. Quindi ecco, lo sciopero momentaneamente congelato, sicuramente insomma, questo non lo prendiamo come una sconfitta, ma anzi, perché poi abbiamo avuto un riscontro da parte dei partecipanti questa mattina all'assemblea sindacale rispetto alla voglia e alla necessità di questo sciopero. Sì, appunto, io poi volevo focalizzare un attimino il ruolo che ci hanno avuto dell'Eterio, i sindacati confederali, in tutti questi mesi di mobilitazione, in questi 3 mesi e mezzo, 4 di mobilitazione. E la CISL e la UIL hanno avuto sin dall'inizio un ruolo connivente con l'azienda, anche con gli stessi loro iscritti, dicendogli, insomma, cercando di smorzare gli animi, e dissociandosi immediatamente sin dal primo sit-in che abbiamo fatto, dal percorso che si erano da creare, quindi dal basso, e quindi talvolta anche facendo girare voci false o criminalizzando le persone che andavano alle mobilitazioni, o scoraggiando o terrorizzando le persone che invece volevano appunto parteciparvi. Sì, ci sono state vere e proprie minacce, anche di denunce, hanno instaurato un vero e proprio clima di terrore. Sì, dicendo che noi avevamo distrutto la macchina di Frati, dicendo che noi avevamo assunto dei toni maleducati, insomma. E invece raccontiamolo questo episodio, magari. Sì, noi siamo semplicemente andati lì chiedendo un incontro, neanche avevamo chiesto addirittura di incontrarci tutti, di incontrare una direzione, che mi sembra una proposta veramente. Un incontro che peraltro era già stato ottenuto, sì, e poi rimandato più e più volte. Sì, la prima volta Frati si è chiuso dentro il suo ufficio, si è arroccato con uno schieramento dei poliziotti davanti, che davanti a poi al lavoratore e alla lavoratrice chiedono semplicemente un incontro. Dopodiché ci hanno fissato questo incontro, abbiamo parlato con i responsabili dell'ufficio tecnico, La volta dopo, che chiaramente siamo andati per andare a questo incontro, ci ha fatto trovare addirittura i cancelli sbarrati del rettorato. Poi lui, uscendo, ha avuto anche un atteggiamento abbastanza spocchioso con chi era lì di fronte e chiedeva appunto spiegazioni per quale motivo noi lavoratori che gli facciamo trovare le aule pulite e il rettorato pulito tutte le mattine, lavato per terra tutte le mattine, lindo e pinto. Lui ha avuto un atteggiamento veramente spocchioso, dicendo che lui non aveva tempo da perdere con questo tipo di problematiche, che aveva fretta, insomma, motivi così. E E riguardo se n'è andato molto l'abbozzo della abbastanza. macchina andandosene via, in realtà i bozzi sono venuti a un po' di partecipanti al presidio Sì, perché se n'è andato via sgommando. durante il presidio con le persone in mezzo alla strada, sgommando e investendo di fatto tutte le persone che cercavano di temporeggiare e parlarci nel frattempo, quindi non c'è stato assolutamente niente di particolare. Tra l'altro, ricordiamo anche che il magnifico rettore trova sempre le sue aule pulite, anche perché quando un operaio o un'operaia, perché in particolare, se non ricordo male, sono tutte donne al rettorato, si mette in malattia, viene repentinamente sostituita, cosa che non accade negli altri dipartimenti. Quindi non solo i dipartimenti sono sotto organico, ma nel momento in cui manca personale in un qualunque dipartimento non viene sostituito e viene chiesto ai colleghi di fare anche insomma il lavoro degli altri. Ma quando manca qualcuno al rettorato invece viene subito tolto il personale dai dipartimenti e mandato al rettorato, che deve sempre scintillare, non si capisce per chi, visto che è un castello sempre barricato in cui il personale si blinda, è assolutamente inaccessibile a chi che sia. Sicuramente non è uno dei posti più frequentati dell'università. No, infatti è l'unico posto dove lo sporco non è tollerato, nel senso, mi spiego meglio. C'è un tacito accordo fra l'azienda e l'ufficio tecnico, che viste queste condizioni, quindi che l'università è perfettamente a conoscenza di queste condizioni di lavoro, lo sporco, tranne che al rettorato, è tollerato in giro. Si possono trovare dei bagni sporchi, si possono trovare delle aule sporche. L'importante è non far emergere poi la problematica, no, dell'appalto. Questo significa che c'è una certa connivenza tra l'Università Sapienza e queste aziende. Certo, infatti ricordiamo anche che quando ci sono stati i primi presidi, parliamo della metà di novembre, alcuni direttori di alcuni dipartimenti avevano inviato una lettera, Dipartimento di Matematica, Fisica, Scienze Naturali e Biologia, avevano inviato una lettera all'ufficio tecnico, al geometra Grottesi, descrivendogli l'insostenibilità della situazione, perché in quel periodo, come ricordava prima anche il lavoratore, non veniva neanche fornito il materiale fondamentale per svolgere il proprio lavoro. E parliamo quindi di sapone, carta igienica, stracci, carta per le mani, tutto il necessario per pulire un bagno e renderlo agibile, buste Non c'è dell'immondizia. anche la carta igienica per gli utenti? No, infatti non c'era la carta igienica per gli utenti, lo ricordiamo molto bene, e davanti a questa lettera di denuncia l'ufficio tecnico ha fatto orecchie da mercante, dicendo che in realtà queste condizioni non sussistevano e che andava tutto bene. Quindi anche davanti all'evidenza dei fatti, anche davanti a una sorta di mobilitazione dei direttori, quindi anche istituzionali, di coloro che sono peraltro gli incaricati formali della gestione degli stabili della Sapienza, hanno del tutto ignorato queste istanze. Sì, in effetti è andata proprio così, cioè è stata negata tutta la difficoltà da parte dell'ufficio tecnico. Quindi l'ufficio tecnico ha tollerato benissimo tutta la situazione, proprio perché nel contraddittorio che c'era anche la ditta ha detto che quello che denunciavano alcuni operai non era assolutamente vero. Di conseguenza, il rettore ha preso atto che tutto andava bene. La risposta dell'ufficio tecnico a questo controllo qualità, che era stato effettuato spontaneamente dai direttori dei vari dipartimenti, è stata quella di delegare proprio a loro il suddetto controllo qualità del servizio, inviando una lettera che li incaricava di controllare appunto lo svolgimento delle pulizie e con una specie di pagellina, con un rettangolino in cui i direttori di dipartimento, chi per loro, i delegati dell'ufficio tecnico che designano per questo scopo, insomma, queste persone devono barrare una crocetta tra vari giudizi che vanno dall'insufficiente, sufficiente, buono, ottimo, come insomma funzionava quando io andavo alle scuole medie, e con un piccolo riquadro per le motivazioni, una modalità di controllo del servizio che evidentemente va a ricadere sul singolo lavoratore, perché poi si sa bene insomma quali sono i lavoratori e le lavoratrici assegnati ad un certo dipartimento, e questo, se impugnato da direttori che non intendono tutelare la stabilità, il posto di lavoro stesso dei lavoratori e delle lavoratrici, può essere impugnato per accusare direttamente i lavoratori e gli operai poi del pessimo svolgimento del servizio, quando in realtà il problema è a monte, cioè è la mancanza di organico, di personale, la mancanza di attrezzature e tutto ciò di cui vi abbiamo parlato. Sì, poi tra l'altro in questa scheda io ho parlato con diverse persone che dovrebbero fare, che sono anche persone insomma impiegati normali, che dovrebbero anche fare questa valutazione. In questa scheda non viene dato spazio poi a valutazioni scritte, cioè è una scheda fatta a crocette in cui c'è una piccola due righe di nota, e molti hanno difficoltà perché comunque vorrebbero chiaramente denunciare il fatto che non è responsabilità del lavoratore se un piano, un'aula non viene pulita, ma a volte le condizioni che ci sono di lavoro fanno sì, per motivi proprio di forza maggiore della ditta, che non viene svolto in servizio regolarmente. Sì, bene, allora noi adesso mandiamo un attimo un altro piccolo stacco musicale e poi torniamo per aggiornarvi sulle iniziative della prossima settimana. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop. Having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Sonic man out of you, yeah. Don't stop me. such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me Charlie, now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Ed eccoci qui di nuovo con i lavoratori delle pulizie della Sapienza, con cui insomma abbiamo chiacchierato un po' delle condizioni della lotta, del percorso di lotta, e facciamo un attimo un sommario generale di quello che abbiamo raccontato, ovvero che ci sono state alcune conquiste, diciamo, questo lo possiamo dire, per i lavoratori e le lavoratrici, ovvero sono stati tutti reintegrati all'orario continuato, alcune buste paga sono state sistemate, non sono ancora stati erogati però gli assegni familiari e gli arretrati che mancavano. No, gli assegni familiari sono stati erogati per questo mese, ma non quelli arretrati. Anche gli arretrati, sì. Bene, allora me ne compiaccio. però non finisce qui, perché comunque per i lavoratori del part-time, per esempio, rimane il problema del pagamento a tariffa oraria e non a parametro, sì, come anche previsto, full-time. E anche per i full-time e non a parametro come previsto dal contratto collettivo nazionale. Le divise, mancano ancora le divise ai lavoratori e le lavoratrici. Allora, scusate l'interruzione, ma abbiamo una chiamata, un ascoltatore che vuole intervenire. Allora dateci qualche secondo per sistemarci e adesso vi faremo ascoltare questa corrispondenza. Ti chiedo i pulpiti, squagliamocela, nei vuoti d'aria della realtà, tracciamo traiettorie migliori, lasciando le galere senza più passare dalla. Liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti. Allora, abbiamo un'ascoltatrice, Alessandra. Pronto Alessandra, ci senti? Sì, sì, sto qua. Allora, volevo innanzitutto esprimere tutta la mia solidarietà ai lavoratori della Multiservizi, perché conosco bene la loro situazione, la vedo tutti i giorni. Io lavoro come esterna in una scuola, per un privato lavoro come assistente di scuola bus, per cui mi trovo a scuola quando arrivano questi lavoratori. E diciamo che la realtà è molto piccola, perché è una scuola elementare. Immagino che alla Sapienza la situazione sia veramente molto più complicata, però niente, io li vedo tutti i giorni che, ad affannarci in pochissime ore, perché queste persone a volte hanno soltanto un contratto di 4 ore e si devono fare aule su aule. E in più non hanno il materiale, cioè io ho visto a volte delle lavoratrici che da casa si devono portare qualcosa per pulire, perché se poi non puliscono bene vengono cazziati prima di tutti dalle insegnanti, e poi che fanno rapporto in segreteria, insomma, cioè veramente è un affanno continuo, e sono trattati salarialmente, per quanto riguarda il salario, molto male, perché se non, i giorni che non lavorano non vengono pagati, mi dicevano. Adesso non so se ancora la situazione è questa, ma... Beh, alla Sapienza sì, è molto analoga, per esempio sulla sesta giornata lavorativa, che è il sabato, mentre da contratto nazionale dovrebbero percepire il 25% in più, invece... Non lo percepiscono, quindi le forme di ricatto anche lì alla Sapienza, anche per quanto riguarda il materiale, come dicevi tu, vediamo che il problema è generale e riguarda un po' tutta questa politica di esternalizzazione dei servizi. Sì, infatti, guarda, io non capisco come la gente non capisce che cosa significa appunto esternalizzare il lavoro, privatizzare, cioè non lo so, io cerco di spiegarlo, ma non lo capiscono. E poi non c'è sensibilità rispetto a questa gente da parte di chi è garantito, che possono essere le insegnanti, le bidelle. Cioè, forse le bidelle tanto un pochino, che ne so, gli prestano le cose per pulire, si scambiano, perché poi pure nella scuola il materiale, cioè, è quello che è, per cui vabbè, oggi mi manca a me, te lo presto io, domani se mi manca a me me lo presti tu, il sacchetto per la spazzatura, cioè, ma si parla proprio di cose che cioè minime, lo straccetto per pulire, o è una situazione sì, veramente davvero, cioè, davvero, insomma, grave, imbarazzante. Poi sì, te sì, ci chiami, ecco, da te lavori in una scuola e insomma loro in università, comunque luoghi di formazione, di istruzione, sì. E vediamo come il taglio all'istruzione non sia semplicemente legato al numero dei corsi all'università o al numero di bambini, di ragazzi per classe, al taglio del personale docente che anche vive insomma un periodo di grande squalificazione, per quello che, nonostante svolgano una mansione importantissima all'interno della società, e anzi forse proprio per questo sono stati, non forse, sicuramente per questo sono ormai squalificati e spesso anche mortificati, così come poi il personale che svolge servizi come questi, che come dicevamo prima non viene insomma, non solo non viene apprezzato, ma viene messo assolutamente in condizioni di lavoro insostenibili, come dicevi tu, le persone si portano il materiale da casa perché poi subiscono il ricatto della valutazione del lavoro che svolgono, e questo è assolutamente grave. Assistiamo a dinamiche assolutamente simili anche alla Sapienza. Sì, è vero. E poi quando manca qualcuno deve essere sostituito, ma da sempre dagli stessi e con le stesse ore, cioè non è che dici, oppure di loro iniziativa vengono mezz'ora prima, così almeno poi possono fare il lavoro di quello che manca, perché sta male, e guai ad ammalarsi, cioè veramente non riesco a capire, forse c'è pure poca solidarietà intorno. Io adesso non so alla Sapienza, appunto, però io lì vedo che poi è il risultato quello che si vuole, e tutto quello che c'è dietro non viene compreso. Esattamente, no, quello che tu dici è verissimo, che purtroppo anche costruire una solidarietà reale e concreta, e anche tra persone che magari non svolgono lo stesso lavoro ma che si trovano a vivere condizioni simili, è problematico, come dicevamo prima, per esempio per gli altri esternalizzati della Sapienza, ma immagino così anche nelle scuole, anche i bidelli so che sono per buona parte in alcune scuole romane esternalizzati, quindi anche loro si trovano a svolgere il loro lavoro in condizioni problematiche e veramente difficoltose. Sicuramente l'elemento, quello che noi abbiamo sperimentato alla Sapienza, è che l'elemento di unione di lavoratori e studenti è stato determinante. Studenti come dicevamo prima, non solo come mera solidarietà, ma come fruitori del servizio, comunque come partecipanti a un percorso di lotta che andava ad attaccare questa dinamica del profitto smodato dalla parte della Sapienza. E stessa cosa accade nelle scuole, visto che ormai non si parla più di presidi ma di dirigenti scolastici, quindi anche le scuole ormai manager. Sono sì, manager, anche le scuole ormai sono delle piccole aziende, e senz'altro costruire anche una solidarietà tra le diverse categorie che attraversano i luoghi è di grande aiuto, è importante e diciamo ha senso sia da un punto di vista di analisi generale, ma anche poi per quel che riguarda le possibili conquiste. Certo, qui è proprio un sociale da ricostruire, cioè anch'io lavoro per un privato, ma sono completamente a nero, cioè non è che per cui forse è proprio per questo che li capisco, e guarda, io non avrò pensione, non avrò niente. Siamo in due. Però... tre o quattro. Sì. Siamo un po'. E forse sarà questo, che se non si sta forse nella stessa condizione non si capisce, non lo so che dire. Chiaramente c'è un attacco generale al lavoro, insomma, lo vediamo nel piccolo, lo vediamo nel grande per quelle che sono le manovre che ha varato questo governo e quelle che hanno varato i precedenti governi di destra o di sinistra che fossero. Abbiamo visto le lacrime della Fornero commuoversi tanto quando ha parlato della manovra sulle pensioni, però insomma poi di fatto l'attacco che stanno sferrando è duro e può essere arginato solo se davvero si crea una consapevolezza, un'unità, una solidarietà tra tutti coloro che ogni giorno vengono sfruttati. Infatti. Bene, noi teniamo duro. Teniamo duro e continuiamo a lottare. Certo. E ti ringraziamo tantissimo della chiamata, non so se hai altro da dire. No. Non c'è altro, insomma. Beh, tenete duro e insomma fateci sapere se intraprendete qualche iniziativa anche a scuola. Sì, ma sai, io sono sola, cioè io sono lì proprio spettatrice, perché non sono bidella, non sono lavoratrice in multiservizi, sono una cittadina lavoratrice al nero di 50 anni senza un contributo, senza niente. Però infatti io non sono tutelata, cioè io non ho neanche un sindacato con cui arrabbiarmi, in effetti. Guarda, tanto noi abbiamo scoperto che i sindacati non ti perdi niente. No, però capito, non ti perdi un sacco di arrabbiature. Non mi posso arrabbiare con loro, col mio principale che fa l'amico, mi arrabbio con tutti e comunque io lotto, comunque sto in piazza, comunque vado ai presidi e ci sono. Bene, speriamo che questa rabbia non si spenga. D'altronde, per usare anche uno slogan che hanno adottato i comitati territoriali contro la discarica di Fiumicino, da soli siamo degli zeri, ma messi insieme insomma magari facciamo anche un po' paura. È vero, infatti insomma sono, cioè, tengo duro nel senso che comunque faccio bene. Il bisogno. Grazie mille della chiamata. Di nulla, buon lavoro, buona giornata. Anche ciao a voi, ciao. Sto male, io non so cosa fare. io non lavoro, non guardo la TV, non vado al cinema, non faccio sport. Lo studio non lavoro, non guardo la TV, non vado al cinema, non faccio sport. È una questione di qualità, è una questione di qualità, è una questione di qualità. Ho una formalità, non ricordo più bene, una formalità. Una formalità. Una formalità. Una formalità. Ho una questione di qualità. Io sto bene, io sto male, io sto bene, io sto male, ma è una formalità, una formalità, una formalità, o una questione di qualità. Una questione di qualità, allora torniamo in voce, ridiamo la parola al lavoratore delle pulizie della Sapienza. Sì, appunto, pure qualità della lotta che abbiamo sviluppato, insomma, anche perché comunque in questi mesi di lotta i lavoratori hanno fatto proprie alcuni passaggi che non sempre sono matematici quando si fa una lotta. In primis il discorso dell'importanza di ricomporsi con altri settori. In questo caso noi abbiamo cominciato con gli studenti, che chiaramente sono nostri coprotagonisti in questa lotta, e quanto è stata importante poi questa sinergia che abbiamo avuto, insomma, con un altro settore che potrebbe sembrare apparentemente lontano da lotta, invece poi su interessi comuni e siamo andati a affrontare questo tipo di esperienza. E questo significa pure per noi è un ingrediente fondamentale il discorso ricompositivo, anche in prospettiva per la lotta per l'internazionalizzazione, quindi ricomporre i diversi settori che ci sono all'università su interessi comuni, che sono interessi dei lavoratori, degli utenti, e quindi praticare una lotta ricompositiva auto-organizzata e soprattutto dal basso. Questo perché altro passaggio fondamentale acquisito poi nel DNA, che sta nel DNA della nostra lotta, e questo l'hanno acquisito i lavoratori stessi, di rifiuto della delega, quindi prendersi responsabilità in prima persona, quindi porsi, non delegare più il delegato sindacale o la sigla, perché l'esempio stesso della nostra lotta è che nei nostri sit-in partecipano lavoratori che non sono tesserati con nessuno o con lavoratori che hanno tesseri sindacali di vario genere, quindi hanno cominciato intanto a capire che tipo di giochetti fanno i sindacati, e in secondo luogo che poi nello specifico nostro anni e anni di delega ha portato al peggioramento di condizioni, perché quando poi chi ti rappresenta puntualmente ti tradisce arriva il momento che poi tu devi prendi la parola, e quindi questo è stato un altro ingrediente fondamentale e importantissimo, insomma, della nostra lotta. Sono due passaggi che per noi risultano importanti anche per il proseguimento, insomma. Certo, senz'altro, questo insomma laboratorio che è stato e continua ad essere insomma il percorso di lotta dei lavoratori delle pulizie della Sapienza e degli studenti sicuramente ci descrive uno scenario in cui ormai l'epoca della delega e anche della concertazione di stampo sindacale è finita, se c'è mai stata, insomma, se c'è stata ora ne subiamo le conseguenze, evidentemente, visto che i sindacalisti vari risultano dei baroni tanto quanto i professori universitari e tanto quanto i vari dirigenti d'azienda, tant'è che i dirigenti aziendali, come abbiamo già detto, sebbene davanti a un presidio di numerosi lavoratori, lavoratrici e studenti avessero preso l'impegno di incontrare una delegazione di quell'assemblea, poi si sono subito smentiti, così come l'università La Sapienza, perché ritengono che queste conformazioni non siano idonee ai tavoli concertativi che mettono in atto, e anche infatti scardinare la dinamica per cui ci sono componenti più o meno istituzionali atte allo svolgimento di questo o quell'altra funzione, pensiamo per esempio ai sindacati, va rotto questo meccanismo. Anche la partecipazione studentesca in questa lotta chiaramente grida a gran voce questa cosa qui, cioè gli studenti e le studentesse non subiscono le vessazioni che subiscono i lavoratori, però sono partecipi attivi, partecipi del percorso di lotta, e quindi in quanto tali hanno tutta la legittimità di insomma essere anche parte in causa non solo con l'Università La Sapienza come utenti, ma anche con l'azienda che perpetra questi scempi di cui vi abbiamo parlato fino adesso. Quindi ecco, come dicevi tu, io appunto sottolineo questo dato della, non solo della ricomposizione, quindi del dialogo tra vari componenti che vivono i luoghi di lavoro, perché poi ecco, un po' in tutti i luoghi di lavoro ci sono diverse categorie, diverse figure. Non solo questo, ma anche ecco, l'intervento attivo, la partecipazione attiva al percorso di lotta. Rispetto a questo, infatti, gli studenti hanno anche messo in campo delle iniziative volte a costruire una cassa di resistenza, quindi con pranzi sociali, con anche insomma anche i lavoratori stessi e le lavoratrici hanno più volte partecipato, per esempio alla stampa dei volantini, non solo alla scrittura, sì, ma anche alla stampa, insomma. E quello che si sta cercando di fare è di costituire anche una cassa di sciopero, perché per persone che da 4 mesi percepiscono buste paga fortemente decurtate, 2 giornate di sciopero sono sicuramente impegnative da un punto di vista economico. Parliamo di buste paga che vanno dai 400 agli 800 euro al mese, sicuramente non parliamo della busta paga né del rettore Frati, ma manco dell'ultimo professore arrivato. Quindi anche in questo invitiamo tutti e tutte a partecipare attivamente alle iniziative in maniera tale da aiutarci anche a costruire quest'altra forma di solidarietà e di supporto al percorso di lotta. E a questo punto non so se vogliamo ricordare le iniziative prossime. Sì, appunto, diciamo l'iniziativa per il 26 e il 27, quindi 2 giorni di sciopero, già indetto, perché questa volta andremo a questo incontro con uno sciopero già indetto. Questa a differenza di quello che voleva la CGIL, che diceva no, non lo indiciamo dopo. Noi partiamo con lo sciopero già indetto. Se l'azienda non retrocede in maniera totale, l'iniziativa è già in piedi, insomma. Prossimamente usciranno dei manifesti e probabilmente faremo comunque dell'agitazione anche per sensibilizzare il resto dell'Università Sapienza, le singole persone, i singoli lavoratori, anche se ci sono collettivi, insomma altri collettivi che sono interessati comunque a dare il sostegno a questa lotta, insomma sono chiaramente ben accetti. Sì, diciamo che tutte le iniziative previste che erano previste per le giornate di domani e dopodomani rimangono congelate, sì, così come lo sciopero, e si spostano, traslano di una settimana a giovedì 27 e venerdì 28 gennaio, quindi con presidio mattutino, assemblea pubblica, sì, sicuramente ci sarà un momento pubblico, assembleare, a cui invitiamo caldamente tutti e tutte a partecipare, perché sarà poi un momento di confronto non solo sulla vertenza e sul percorso di lotta specifico, ma anche di riflessione generale su non solo sulla gestione dell'università, ma su questa politica delle esternalizzazioni. Sì, come diciamo in parte anche in questo tempo cessato, perché anche diversi lavoratori singoli hanno partecipato a questa lotta, proveniente anche da fuori la Sapienza, quindi comunque in queste giornate che ci saranno del sciopero sarebbe insomma bello, diciamo, sarebbe utile che anche altre esperienze di tipo lavoratore, anche non probabilmente delle pulizie, ma anche di altri settori lavoratori, che vengano a dare le sue idee, che si vengano a confrontare anche su un percorso organizzato, insomma, quindi che possa essere ulteriormente ricompositivo anche al di fuori dei muri della Sapienza. Certo, perché ricordiamo tra l'altro che simili avvenimenti si erano verificati anche qualche anno fa nell'Ateneo di Roma 3 con i lavoratori delle portinerie e anche i lavoratori e lavoratrici delle pulizie. insomma è un al di là sia per la categoria ma anche in generale per le condizioni di lavoro di tutti e tutte, insomma discutere dei possibili percorsi di lotta e delle forme di lotta è interessante e, o importante e quanto mai urgente. E detto questo, non so se volete aggiungere altro. Se no io insomma vi ringrazio della disponibilità e della partecipazione. Sì, grazie per lo spazio. Grazie a voi. Ci riaggiorneremo sicuramente dai microfoni di questa radio, daremo aggiornamenti poi specifici sulle iniziative, sullo stato delle cose, vedremo se questo tavolo il 25 ci sarà, vi faremo sapere quale sarà l'esito e niente, insomma vi invitiamo tutti e tutte a stare aggiornati, un saluto caloroso specialmente a tutti e tutte coloro che sono privati della propria libertà, a cui dedichiamo questa canzone.